Ok. Si sa che se si in ballo si deve ballare, non c'è alcun modo per poter saltare. Un ballo lento o un ballo veloce, e chi va troppo forte la smette in un modo precoce. In fin dei conti è soltanto un gioco, premi il tasto play ed il mondo andrà a fuoco. Salti, corri, scivoli, vai avanti e indietro, te lo misuri nel bagno con un metro. Per quanto siamo unici alcune cose sono uguali, le viviamo tutti quanti noi miseri mortali. Esperienze accumulate nei vari portali, assieme agli studiosi spazio temporali. Nel corso degli anni ne vedi di tutti i colori, il mondo d'altronde è fatto di sfumature e di odori. Cose belle e cose brutte non le puoi evitare, cadono come la pioggia e non ti puoi non bagnare. C'è chi la prende male, chi la prende meglio, chi dorme fino a 20 anni e chi invece nasce già sveglio. Chi si costruisce una vita sua lavorata, chi se la costruisce cazzata dopo cazzata. Chi come me si diverte a giocare, anche se sa che con il tempo dovrà cambiare. Si immagina uguale da qui a 10 anni, ma con le spalle più larghe e più cariche di danni. Mamma mamma ciao, guarda come mi diverto, di questo ciclo di vita l'ennesimo reperto. Reperto trovato nel sottosuolo, ma liberato dalla roccia io spicco il volo. Ultrasuono del beat di Mario nelle orecchie, la musica è vita e almeno questo mi riflette. La vita ogni giorno forse mi prende e mi sbatte, prova a spezzarmi non ci riesce però mi flette. Forse ci vuole sul serio un fisico bestiale, prendere tutto e trattare gli altri come un animale. Eppure sono fatto così, sono troppo buono, non sono un mostro di bellezza però suono, anzi canto significato alle parole. Soprattutto oggi in questo mondo di santi e di suore, dove il minimo errore può essere fatale, ci sarà un'esplosione quasi arma letale. Boom boom bang, mi parlano di sparare, si immaginano in guerra per dire di far del male. Ci fanno tanti forti, il massimo che sanno fare, come per tutti questi incontri è solo parlare. Io so soltanto che ce la devo fare, alla fine di questa mia vita ci devo arrivare, ci voglio arrivare. Io voglio esplorare questo pazzo mondo soltanto per capire come mai alcune cose girano e altre restano ferme, come mai la testa di alcune persone è infetta da un germe letale, fatale, distrugge il cervello. Mattone dopo mattone cade un altro castello, ma sarà che in fondo questa vita è un gioco, chi ci vede sempre bene, chi ci vede rosso fuoco. Un insieme di punti di vista diversi, un insieme di pensieri tra i contorti e tra i perversi. Il mio cammino è già stato segnato da ogni singola cosa che ho vissuto in passato, tutto immagazzinato dentro la mia testa, nonostante il mio pensiero schizzi da sinistra a destra. Confusione incredibile se io guardo questa città con un misero occhio codardo, sfuggente, un po' come l'attimo mancato, quello che mi serviva per essere scappato. Ed ora so che in questa non voglio trucchi e non voglio usare né magheggi né tarocchi, voglio soltanto vivere la vita per intero, vivendo bene o male, ma seguendo solo il mio sentiero.